E c'è una rosa, rosa. Morbida come il latte. Si apre lentamente. E più si apre, più rivela il suo cuore al centro, fatto di luce e di stami d'oro. È un mondo che guardi e che vuoi guardare più da vicino. Questo ti attira e cadi in quel mondo. È un mondo molto vasto ed arido. È fatto di terra, di burroni e di crepacci che si aprono dappertutto. Il mondo è solcato da una frattura assolutamente lunga e profonda. Ma è un mondo dolce, poiché viene dalla rosa che lo racchiude. È un mondo secco, ma pieno di miele, tenero. Il cielo è d'oro e l'orizzonte che avvolge questo mondo splende. Non vedi un sole, forse è già tramontato. Ma l'orizzonte d'oro ti accompagna ovunque vai e non ferisce il tuo sguardo. Ma riscalda tutto il tuo essere. Il mondo è dominato da un vento impetuoso che in alcuni punti si ferma, mentre in altri scorre a gran velocità, soprattutto è un vento che si insinua nei crepacci. E che nei canyon soffia a grandissima velocità. Il canyon che stai guardando è molto grande, è tutto in ombra. Tu sei in cima al crepaccio, un crepaccio immenso. Che sbuca dalla terra come una freccia. E tu puoi guardare da di sopra questa immensità. Dove sei non c'è vento, o ce n'è poco. Ma puoi udire il rumore del vento, i sibili del vento che scorre sotto di te, dove la luce d'oro si assenta. La luce d'oro copre il tuo corpo, riveste la tua pelle, guardi le tue mani e sono come luminose, ricoperte di quella polvere d'oro che in realtà è semplicemente luce che viene dal cielo. E comprendi perché quel cielo è il nettare della rosa che racchiude il mondo. Sei seduto su quel crepaccio, così tranquillo. Guardi questo tramonto, che non è un tramonto. Guardi questo mondo, che non è espressamente un mondo perché ti sembra una rosa. E puoi guardare questo mondo dal di fuori e vedi che in realtà è semplicemente un pianeta. Un pianeta però di cui vedi qualcosa che si agita intorno. Sono linee rosa. E disegnano come dei petali. Sono appunto da qui la sensazione che si trattasse di un pianeta rosa. E questi petali sono vivi. Producono intorno come un'aurora rosa. E il pianeta è avvolto da questa aurora rosa a forma di petali e procede nel cosmo così, con questi petali vivi che ruotano e si allargano come appunto un fiore che vuole sbocciare. Ma il pianeta è così arido in realtà. È secco e non c'è nessuna vita. Al di là della vita della Terra, della vita del cielo d'oro e della vita oscura del vento che soffia potente nei canyon e fra i crepacci. È un pianeta sereno. Ma severo. Tu viaggi con lui sopra quel crepaccio. In questa nave che procede lenta nel cosmo verso un obiettivo ignoto. E resta un cielo d'oro perenne e vasto. l'oro del cielo è dentro di te e fuori di te. L'oro del cielo è fuori di te, è dentro di te. E ti rende leggero, leggerissimo. Quasi adesso quel poco di vento che c'è potrebbe spostarti come una foglia nel vento. E allora dici, e sia, che io vada nel vento, col vento, dove il vento vuole. Apri gli occhi, ti alzi, uno sguardo all'oro del cielo e con coraggio, senza paura, con grande sicurezza, ti abbandoni nel vento e il vento ti porta al centro del canyon. Da cui cominci a fluire, ora più lentamente, ora più velocemente, e passi da crepaccio a crepaccio, da ombra in ombra, pieno dell'oro del sole che hai conosciuto, in superficie, in alto. E con la tua luce riscaldi quell'ombra così fredda. Quell'ombra raccolta tra le anse della terra. E voli e rischiari. E vedi che il mondo non è morto, perché in fondo a quel canyon la tua luce adesso mostra la vita che c'era. Colonie di funghi, di erbe, di tutti i colori, blu, viola. E continui a scorrere col vento, come una particola di luce, minima ma sufficiente. Per illuminare tutta quell'ombra, anche per un solo istante, rivelare tutti i colori che essa celava. E percepisci la gioia delle creature vive in fondo di ricevere la luce del sole, la tua luce che hai preso dal sole, che hai preso dal cielo. E scorri nel vento ancora per lunghi chilometri. Viaggi per tutto il pianeta, per tutto quel crepaccio lunghissimo che adesso gira un po' e tu giri con lui a illuminare tutta la profondità terrestre con la tua semplice presenza. E arrivi poi a un punto, a un muro, il crepaccio sta quasi per terminare. E allora ti alzi e ti fermi. fermi in un punto. E da quel punto comincio a vedere in lontananza laddove tu hai cominciato il tuo viaggio, delle piccole luci che scendono dal cielo, come un piccolo uragano, un piccolo tornado dal cielo, quelle luci, quelle porzioni di polvere, di sole, dalla terra di superficie scendono nel mondo delle ombre e come te anche loro cominciano il loro viaggio nel tunnel d'ombra attraversato dal vento perenne. E come te illuminano il pianeta, le gole secche e scure di questo pianeta avvolto dalla luce. E senti il loro passaggio dentro di te. Comprendi che stanno rischiarando anche te. Scorrono e illuminano con la loro gioia di volare nel vento. E sono arrivate dove sei arrivato tu, uno ad uno, si mettono accanto a te e prendi parte di questo tornado di luce, di polvere, di luce, che voi siete. E il tornado ascende al cielo. Va fuori dall'orbita per vedere il mondo dal di fuori. Per vedere i petali rosa, per comprendete l'amore che avvolge questo pianeta così arido. Nonostante sia così arido, l'amore attende questo pianeta. L'amore vuole spingere questo pianeta verso la vita. Comprendendo questo desiderio, tu e gli altri frammenti di luce ve ne fate partecipi. Di là vedete il sole che riscalda questo pianeta, è un sole arancio, di un sole caldo e profondo, di un sole sereno, di un sole che chiede aiuto. È un sole che riceverà. il vostro aiuto. È un sole che vi dona il suo aiuto, che vi ha donato il suo oro. È in risposta del quale voi libererete dal vostro cuore un frammento di luce bianca. E da ognuno di voi si libera un frammento di stella che crea come un turbine di piccole luci che avvolgono il pianeta. La rosa si allarga. La rosa rosa diventa un po' bianca, poi più bianca, poi ancora più bianca fino a quando diventa perfettamente bianca e a quel punto piove. Sul pianeta si sono formate delle nuvole e da queste nuvole si scarica la pioggia. La pioggia bagna la terra. La pioggia bagna la terra per molti, molti anni. E il cielo d'oro si è fatto più azzurro e la terra arsa si è coperta d'erba, d'erba verde, bianca, gialla, rosa, blu. È un mondo che ha accettato la vita.